La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 16 gennaio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. In questa trasmissione abbiamo parlato nel corso del tempo di molte cose, abbiamo parlato di biologia, abbiamo parlato di informatica, abbiamo parlato di astronomia, abbiamo parlato di fisica delle particelle, ma non abbiamo mai parlato dei rapporti fra scienza e guerra. E ne parleremo quest'oggi col dottor Giampiero Ruani, ricercatore presso il CNR-ISMN, e facente parte del gruppo Scienziate e Scienziati Responsabili. Buongiorno dottor Ruani. Buongiorno a lei e ai suoi agli ascoltatori. Dottor Ruani, all'inizio della trasmissione, come avrà già ascoltato nei nostri podcast, abbiamo 100 parole per introdurre tutta la puntata. E quindi io in 100 parole vorrei una risposta a questa domanda. Che cosa è la scienza e cosa dovrebbe essere la scienza? La scienza dovrebbe essere uno strumento che dovrebbe servire per decifrare la natura, quindi quello che va dall'attività sperimentale, le interpretazioni teoriche, le ipotesi teoriche, per cercare di interpretare e capire il comportamento della natura e i meccanismi che la regolano. Quello che delle volte diventa, o almeno su quello su cui viene utilizzata, è un indirizzo che non è più solamente una struttura etica per l'interpretazione della natura, ma diventa uno strumento di innovazione che a volte può essere indirizzata politicamente e utilizzata in questo modo per scopi specifici. Dottor Ruani, ci fermiamo per un po' qui, andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continueremo a parlare di questo argomento. Silence, or we E bentornati in studio, cari radioascoltatori. Siamo in collegamento telefonico col dottor Giampiero Ruani, ricercatore del CNR, ma soprattutto facente parte del gruppo Scienziate e Scienziati Responsabili, che si pongono i problemi dei limiti etici della scienza. Stiamo provando a parlare con lui dei legami che ci sono e che in teoria non ci dovrebbero essere fra scienza e guerra. Dottor Ruani, oggi nel XXI secolo ci domandiamo se la scienza debba prestarsi ad essere utilizzata dalla tecnologia militare. In realtà però questa è una discussione che abbraccia molti secoli prima del nostro, addirittura l'Ottocento e Seicento e anche molto prima. Sì, da molto prima direi, diciamo così dal III secolo avanti Cristo almeno, quando Archimede contribuiva alla costruzione delle macchine da guerra, e poi in seguito scienziati come Bacon che si sono occupati della polvere da sparo e così via nei secoli fino all'inizio della prima guerra mondiale, dove gli scienziati cominciano ad avere un'attività dal punto di vista bellico, con ricerche all'interno di istituti che sono sempre funzionati per la ricerca scientifica e basta. Dottor Ruani, come mai uno scienziato, che tendenzialmente è un intellettuale che gioca con i numeri, si dovrebbe interessare alle attività belliche? Ma i motivi possono essere tanti, o almeno quelli che sono stati utilizzati da chi a queste cose qua si è prestato nell'arco degli anni sono molto vari. Vanno dalla necessità della difesa, in qualche modo quella che poi verrà chiamata guerre giuste, ritornando poi a dei vecchi concetti medievali e tutto il resto di guerra giusta, dove appunto uno deve per forza sviluppare queste cose qui, perché tutti siamo in guerra, dobbiamo difenderci dal malvagio di turno, e quindi contribuisco io alla salvezza del mio paese prima utilizzando dei metodi che altrimenti gli altri svilupperebbero contro di me. Più si va avanti col tempo e più, quando si intrecciano le cose tra ricerca militare, ricerca civile e tutto il resto, molti non si pongono più neanche il problema, passano direttamente a considerare quello che è il rapporto tra scienziato che fa un lavoro senza sapere bene per cosa verrà utilizzato, o se fregandosene completamente di quelli che saranno poi gli utilizzi in un secondo tempo. Per cui sono diversi meccanismi che possono portare un ricercatore ad occuparsi consapevolmente o a volte, diciamo così, inconsapevolmente di una ricerca di tipo bellico. Senta, professor Ruani, fino a qualche anno fa, fino a 20 anni fa, eravamo in piena guerra fredda, il mondo era impaurito dal pericolo di una possibile guerra atomica. Uno dei tanti film che si è occupato di questo problema, di questo fenomeno, fu proprio War Games, in cui il computer Whopper alla fine del film giocò al gioco della guerra e si accorse che la guerra non poteva essere vinta da nessuno. Greetings, Professor Falcon. Hello, Joshua. Strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess? Oppenheimer disse che la scienza, dopo il lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, aveva conosciuto il peccato originale. Che cos'è il peccato dal punto di vista scientifico? In quel caso lì, la definizione di Oppenheimer probabilmente era anche molto legata alle sue scelte personali che aveva fatto in quel momento lì, oltre ad aver fatto parte, come molti altri scienziati a quel tempo, della ricerca per la bomba atomica, il famoso progetto Manhattan. Nel momento in cui si arriva alla fine della guerra, è oramai chiaro che la Germania non sarà mai in grado di costruire una bomba atomica, e scienziati come Rotblat escono dal progetto, mentre altri come Oppenheimer restano dentro, e restano dentro anche nel momento in cui la Germania viene sconfitta e suggerisce addirittura l'utilizzo della bomba nucleare su un obiettivo misto, cioè colpendo un obiettivo che sia militare ma che abbia anche ricadute civili per presenza di civili in zona. E quindi per lui sicuramente il definire peccato originale quello che ha conosciuto la scienza è sicuramente una parte, direi, molto molto personale, comunque molto obiettiva dal punto di vista del sistema scienza, in cui per la prima volta gli scienziati pongono la loro attività al servizio di una forza di distruzione enorme e quasi incontrollata dal punto di vista della potenza. Senta, dottor Ruani, se potessimo dare una definizione, quali sono i limiti che si dovrebbe porre la scienza e quali invece i limiti che si dovrebbe porre la tecnologia? Diciamo così, i limiti minimi che uno scienziato dovrebbe porsi dovrebbe essere, a mio avviso, quello di non collaborare a tutte quelle che possono essere ricerche che contribuiscono alla distruzione del genere umano, e quindi in primo luogo alle ricerche militari. Negli anni si è discusso molto se avesse senso fare qualcosa tipo istituire qualcosa tipo un giuramento di Ippocrate o qualcosa di analogo per gli scienziati. Di fatto diventa molto, molto complessa come struttura, anche perché non so se mettiamo una condizione del tipo farò mai ricerche su qualcosa che ritengo non sia un bene per l'umanità, potrebbe essere da un lato interpretato nel senso non contribuirò mai, che il mio lavoro serva alla distruzione dell'umanità o di una componente del genere umano, dall'altra potrebbe esserci quello che dice io con questo qui intendo rafforzare il mio mondo, intendo rafforzare questa società con cui vivo e difendermi da quello che è fuori, che sono, in cui si diceva no, io salvaguardo con la mia ricerca il mondo civile contro il comunismo che altrimenti distruggerà noi. Quindi la scelta dei paradigmi delle volte può essere difficile. Quello che sicuramente si in qualche modo è cresciuto negli ultimi decennio, ventennio nella consapevolezza degli scienziati, dopo quello che appunto era stato conosciuto come il peccato originale della bomba atomica e che per molti anni aveva focalizzato solamente l'interesse o il dibattito sul rapporto scienza e guerra, si è andato allargando di più a altre condizioni del genere umano, quindi dal punto di vista dell'interesse ecologico o delle condizioni del genere umano in generale, quindi un rapporto, una vera funzione etica in qualche modo anche della scienza. Ovviamente di questo argomento ne parleremo meglio verso la fine della trasmissione, però in questo momento per esempio mi viene in mente Maxwell, che scoprì le equazioni dell'elettromagnetismo verso la fine dell'Ottocento, e il povero Maxwell non poteva sapere che quelle quattro equazioni, quindi le onde elettromagnetiche, sarebbero state utilizzate già verso l'inizio del Novecento come tecnologia bellica. Certo. Torniamo però a noi. La vulgata popolare dice che il nostro mondo trarrebbe giovamento dalle tecnologie militari, perché dalle tecnologie militari stesse scenderebbero le applicazioni che poi noi utilizziamo tutti i giorni. Mi viene in mente internet e GPS, che erano dei progetti militari e poi sono diventati dei progetti civili. Questo concetto è sempre vero? Beh, diciamo che di semplici se ne potrebbero fare molti, però non so, il radar, il sonar, tutta una serie di soluzioni che poi sono state utilizzate nel mondo civile, ma che come ricerche in qualche modo erano nate in ambito militare. Il problema credo che dipenda più che altro non tanto sul fatto che se io faccio ricerca militare poi questo può avere una ricaduta nel mio mondo civile, quanto più che altro quanto spendo io per le ricerche di tipo militare e quanto spendo io per ricerche di tipo civile. Le stesse cose, le stesse soluzioni si potrebbero trovare se i fondi che vengono stanziati e continuano ad essere stanziati in modo molto cospicuo per quanto riguarda la ricerca militare venissero invece destinati direttamente alla ricerca non militare. Quindi possiamo dire effettivamente che la ricerca militare sviluppa più innovazione semplicemente perché la ricerca militare riceve più fondi. Ci fermiamo per un attimo qui, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continuiamo questa interessante chiacchierata. Bentornati in studio cari radioascoltatori in questa puntata in cui stiamo parlando dei rapporti presenti fra scienza e guerra e ne stiamo parlando con il dottor Giampiero Ruani del CNR e del ISMN e facendo parte del gruppo Scienziate e Scienziate Responsabili. In questa seconda parte della trasmissione cominciamo analizzando una ricerca uscita su Nature a metà del dicembre del 2009. Si parlava del fatto che le guerre più o meno sono tutte uguali, cioè sembrano non essere influenzate da parametri come la geolocalizzazione del conflitto e soprattutto chi svolge questa guerra. Si è notato inoltre che i morti in battaglia continuano ad aumentare esponenzialmente e che però tutte le guerre seguono una legge che può essere definita come legge di potenza. Ora, il fatto che le guerre siano più o meno tutte uguali e che non dipendano da parametri come dove si fa la guerra e chi fa la guerra, che cosa può voler significare? La ricerca a cui fai riferimento è una ricerca che analizza in particolare le guerre individuate come guerre in qualche modo di rivolta, insurgenze in questo caso qui, e quindi mettendo insieme quello che è terrorismo, lotta di popolo per la liberazione e tutto il resto, e prende alla fine come parametri per interpretare il numero di morti due parametri principali, che sono: uno, la forza del gruppo che partecipa a questa lotta, che può essere di liberazione, terrorismo, loro non fanno distinzione, e la forza militare organizzata che vi si oppone. I parametri fondamentali sono appunto il rapporto tra le forze di questi due gruppi e la singola forza del gruppo insorgente. In questo modo qui si riduce il sistema a un sistema che è tipo quello di un sistema ecologico, in cui una data specie cresce o diminuisce in funzione dell'ambiente esterno. Quindi il lavoro principalmente si basa su questo. È un modo molto freddo di vedere le cose da una parte, e dall'altra però, poi se uno va a vedere bene i dati come vengono selezionati, è anche molto parziale, nel senso che poi i dati che vengono utilizzati sono quelli non dei morti totali che una guerra di questo tipo genera, ma semplicemente i morti che vengono generati da una parte, da una parte sola dei contendenti. Senta, dottor Ruani, nel corso della sua vita da ricercatore ovviamente ne avrà viste di cotte di crude, quindi avrà visto applicazioni militari, applicazioni civili e molto molto altro. Ora, qual è stata la cosa che nel corso della sua carriera da ricercatore l'ha stupita di più? Cioè, qual è stata quella tecnologia militare proveniente magari da una innocua scoperta scientifica che l'ha fatta più sobbalzare sulla sedia, considerando il fatto che magari quella applicazione militare veniva derivata da una ricerca civile fatta da un ricercatore che non aveva nessuna voglia di regalare la sua scoperta alla produzione di armi magari di distruzione di massa? Ma sul passaggio dalla ricerca civile a quella militare, credo che chiaramente la cosa che più che stupire, che ha avuto un effetto più eclatante, sono state le ricerche sul nucleare, che hanno portato allo sviluppo della bomba atomica. Per quanto riguarda momenti più recenti, credo che sicuramente le armi a energia diretta che si stanno sviluppando in questo momento negli Stati Uniti e nei laboratori militari di grossa parte del mondo sono quelli che in qualche modo colpiscono di più, perché uno non sa bene che cosa si stia sviluppando e che cosa venga sperimentato nei campi di battaglia attuali. Un esempio è un attacco contro civili da parte di un esercito ben armato come quello israeliano, in cui vengono utilizzate delle armi che sono praticamente armi nuove che non si conoscevano prima o che non erano mai state usate, e vengono in qualche modo sperimentate direttamente sulla popolazione che ne subisce i danni. A me, devo essere sincero, ha molto stupito il fatto che l'esercito degli Stati Uniti stia utilizzando lo schema di un videogioco, cioè il videogioco Halo sviluppato per Xbox, per sviluppare per sé delle tute nuove con dei nuovi esoscheletri che permettano di sostenere dei carichi molto pesanti. In più, queste tute avrebbero un casco computerizzato con dei sensori infrarossi, e a quel punto quei caschi e quelle armature andrebbero caricate, quindi quelle armature saranno fatte con delle vernici fotovoltaiche che permetteranno al nuovo soldato di ricaricarsi direttamente in battaglia. Ora, tutto questo è inquietante perché in realtà il soldato si trova davanti non una persona, ma un algoritmo rilevato da un sensore a infrarossi, quindi più un videogioco che una guerra. Sì, dal punto di vista dei laboratori militari c'è una grossa ricerca anche su campi che apparentemente non hanno niente a che fare col militare, e molto di più con quello che è invece la ricerca per il civile, anche dal punto di vista dell'ecologia, come potrebbe essere lo studio sul fotovoltaico, cercando di utilizzare materiali a basso impatto ecologico, come appunto questo tipo di vernici che vengono studiate per la realizzazione di dispositivi fotovoltaici, vengono studiati anche non solo a livello civile, ma anche dai laboratori militari, proprio perché possono essere, ancora non si è arrivati al livello di perfezionare il sistema in modo da poterlo utilizzare, queste vernici, su qualsiasi tipo di superficie che sia estesa, flessibile, tutto il resto, e quindi possibile anche ricoprire in questo modo qua anche vestiti e quindi tute militari. In questo modo un militare, che oramai è diventato molto più simile a una specie di robot con una serie di strumentazioni elettroniche all'interno, che vanno dall'identificazione del nemico a grande distanza con sistemi infrarossi e visori vari o altri sistemi di questo tipo, diventa sempre più un vestiario dal punto di vista energetico molto, molto dispendioso, e quindi avere a disposizione una fonte di ricarica dal punto di vista elettrico, che poi come può essere un dispositivo fotovoltaico inglobato direttamente nella tuta e senza un aggravio di peso, è sicuramente una delle cose a cui stanno lavorando intensamente. Senta, qualche giorno fa sono capitato per puro caso sul sito del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Ora, non ci sarei mai andato di mio spontanea volontà, però ho trovato un podcast intitolato Armed with Science, che è un podcast settimanale in cui i militari parlano settimanalmente delle varie armi, dei problemi psicologici dei soldati e delle varie ed eventuali. Questa è la sigla. Armed with Science. Research and Applications for the Modern Military is a weekly webcast that discusses cutting-edge science and technology and how they apply to military operations. Each week, we will interview scientists, administrators, and operators to educate and inform our listeners about the importance of science and technology to the modern military. A parte il collegamento non troppo felice fra scienza e guerra, che io personalmente non avrei mai voluto sentire, all'interno di uno di questi podcast si parlava dell'incremento dei suicidi da parte dei soldati, e c'è uno psichiatra che con disinvoltura dice che anche nel caso in cui il militare non dovesse presentare segni di squilibrio, vale la pena preventivamente imbottirlo di psicofarmaci di modo che non abbia tentazioni suicide. Ora, possibile che fino ad ora nessuno se ne sia accorto? No, è possibile. In effetti internet rappresenta da una parte una fonte di informazioni molto, molto valida, ma è anche una fonte di una massa di informazione estremamente estesa e difficile da tenere tutta sotto controllo, tutto quello che succede. E dal punto di vista dello scienziato c'è sempre, almeno dello scienziato attuale, c'è sempre più la tendenza ad occuparsi del suo piccolo ambito di ricerca. C'è sempre una tendenza a parcellizzare le proprie conoscenze e il proprio lavoro. Quindi molto spesso uno si limita a guardare le cose che compaiono nel suo campo o in campi limitrofi non troppo distanti. Può capitare che una cosa per lo specialista, per lo scienziato come questa possa passare inosservata. Senta, come ultima cosa le volevo far commentare una filastrocca ritrovata su un libro che si intitola Autocritica della Scienza, a cura di Alain Joubert e Jean-Marc Lévy de Blonde, che era pubblicata all'interno di una collana di Scienza e Politica edita dalla Feltrinelli fino a qualche anno fa. La filastrocca dice: c'era una ragazza che partì cavalcando una tigre. Ritornarono la tigre sorridente e la ragazza dentro. Chi è la tigre? La scienza o la società? Ah, ma direi più che la società, sì, possiamo dire che è la società in qualche modo la tigre. Lo scienziato controlla sempre meno quello su cui lavora e sul come può venire utilizzata all'esterno, o almeno se lo fa si illude, se ci crede molto spesso si illude di farlo. C'è molto spesso una bassa consapevolezza da parte di molti scienziati su quelli che possono essere gli sviluppi del proprio lavoro o non porsi problemi su che tipo di sviluppi possono avere poi i lavori su cui si sta lavorando. Dottor Ruani, la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande e saluto i nostri radioascoltatori. Gli ascoltatori di Cacciafotone di Radio Città Fucico, l'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, dottor Ruani. Grazie anche a lei e un saluto ai suoi ascoltatori.